Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento con la cronaca su Radio 24 che ci parla dell'Italia in controluce. Il 17 settembre gli hanno incendiato la macchina al sindaco di Niscemi in Sicilia. Quattro giorni più tardi 3.000 cittadini sono scesi in piazza e hanno manifestato per stringersi attorno a lui, al sindaco che si è messo in testa di fare rispettare la legalità. 3.000 persone non sono poche in un comune di 27.000 abitanti in provincia di Caltanissetta. Una storia che ci racconta Nino Amadore. A Niscemi si moriva per poco, solo per essersi trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. All'inizio degli anni 90 qui comandavano gli scissionisti della Stidda, i giovani criminali in guerra con il mondo. C'era il racket mafioso e c'era la droga e non si riusciva a inaugurare nemmeno una scuola. Giovanni Di Martino aveva qualche anno in meno, ma sempre lo stesso coraggio. Era un giovane avvocato che sognava un paese diverso, il suo. Di Martino è diventato sindaco per una manciata di voti 3 anni fa, al termine di una campagna elettorale all'ultimo voto in un comune reduce da uno scioglimento per infiltrazioni mafiose. Ha portato una ventata di legalità e questo non è piaciuto ai clan. Qualcuno un paio di settimane fa gli ha bruciato la macchina. Di Martino ha dimostrato che è possibile cambiare il corso delle cose. Come? Ce lo racconta lui. La mafia ha contaminato le istituzioni e la politica. E noi ci siamo avviati dopo il nostro insediamento per ripristinare condizioni di vivibilità con il rispetto e per il rispetto della legalità e abbiamo avviato tutta una serie di percorsi, lavorando innanzitutto con i ragazzi e con i giovani e poi abbiamo avviato tutta una serie di attività legate alla trasparenza nelle gare di appalto. Abbiamo di recente promosso l'applicazione della direttiva del Ministero dell'Interno riferita alle cosiddette white list, cioè a quell'obbligo che hanno le imprese aggiudicatarie di comunicare alla stazione appaltante praticamente tutte le imprese di servizio di cui si avvarrà. Un'azione amministrativa costante che i cittadini sembrano apprezzare, vista la partecipazione alla manifestazione di solidarietà che si è svolta nel cuore di questo paese siciliano dopo l'attentato al sindaco. Hanno partecipato più di 3.000 persone, un fatto eccezionale, un dato che incoraggia Giovanni Di Martino ad andare avanti. Ritengo che noi stiamo operando a 360 gradi, tra l'altro cercando di ripristinare le regole e la legalità anche in altri ambienti, in altri settori, diciamo, della vita amministrativa, con per esempio la lotta all'abusivismo edilizio. Abbiamo attivato già le procedure per procedere agli abbattimenti delle case abusive, abbiamo emanato tutta una serie di ordinanze per sgoffare e sgombrare gli alloggi popolari occupati abusivamente, e stiamo cercando di promuovere la nascita di un'associazione anti-racket. E c'era il problema del ritorno sul territorio di boss che hanno scontato la pena e che ora stanno tornando in libertà. Questo vi preoccupa? Ma questo certamente non crea condizioni di serenità, soprattutto per l'opinione pubblica, per i cittadini che vogliono avviare percorsi, diciamo, produttivi, di investimenti in maniera, diciamo, trasparente e serena, e quindi si creano così le condizioni per creare preoccupazione. Accanto al sindaco di Niscemi c'è Avviso Pubblico, l'associazione di enti locali contro le mafie di cui Di Martino è vicepresidente. Il coordinatore nazionale Pierpaolo Romani spiega come gli enti locali possono diventare una diga contro le mafie e lancia una proposta. Io ho la diretta testimonianza attraverso l'associazione Avviso Pubblico, questa rete di enti locali che mette insieme dal 96 più di 180 realtà, che un ente locale può fare molto sul territorio per la semplice ragione che è l'istituzione statale più vicina al cittadino. Noi abbiamo un'idea che è quella di proporre anche al Ministero e agli altri enti locali che quando si fa una gara si dia una corsia preferenziale a quegli imprenditori che hanno denunciato il racket. Chi sta dalla parte degli onesti deve trovare convenienza, non solo morale ma anche economica e finanziaria. Italia in controluce. Di scuola si è parlato tanto negli ultimi tempi, soprattutto per la riforma Gelmini, ma ci sono anche storie diverse. Molte hanno a che fare con il numero crescente di ragazzi e bambini stranieri. Un fenomeno relativamente nuovo per l'Italia, ma col quale ormai tutti devono fare i conti. Alessandra Schepisi ha visitato la primaria romana Pisacane, a suo modo diventata un caso. finanziata con i soldi dei contribuenti. Partecipazione e accoglienza devono passare assolutamente per il rispetto delle regole e per la difesa della nostra identità culturale. Non c'è pace per la Carlo Pisacane, via dell'Acqua Bollicante, quartiere di Tor Pignattara, la scuola primaria più multietnica di Roma. 180 alunni, di cui 165 stranieri. La prima B ospita 19 bimbi, tutti immigrati. La prima A invece ne ha 18 su 21. Numeri ben al di sopra di quel tetto del 30% previsto dal ministro dell'istruzione Gelmini per evitare ghetti e favorire l'integrazione. Pisacane, che l'anno passato ha corso anche il rischio di veder cambiare il proprio nome in quello del pedagogo giapponese Tsunesaburo Makiguchi, è confluita nell'istituto comprensivo Laparelli. Il calo delle iscrizioni, soprattutto di italiani, rischiava di farle chiudere battenti. Flora Arcangeli, una delle mamme italiane che ha guidato la protesta e che alla fine, come tante altre, ha deciso di togliere il suo bimbo dalla scuola. Il problema grosso, secondo noi, di tutta questa storia è che è stata proprio gestita male, cioè c'erano stati dei casi eclatanti con maestre che facevano imparare a memoria una poesia in arabo. Tu fai ad esempio la penisola del Bangladesh invece che quella italiana, quindi arrivare a scuola e vedere che tuo figlio veniva portato alla festa del Ramadan, doveva mangiare con le mani, mangiare piatti che tu non sapevi come erano stati preparati, tutte piccole cose, no? Comunque ti disturbavano come mamma. Una scuola ghetto per il Ministero dell'Istruzione che ha promesso di intervenire, una scuola dove l'integrazione è realtà, specchio del mondo in cui viviamo, per la nuova dirigente Flora Longhi. Ogni scuola primaria fa le attività di continuità con la scuola dell'infanzia. Se si è creata una concentrazione forte di bambini di cittadinanza non italiana, è inevitabile che poi alla scuola primaria arrivano. Perché poi si è creata questa concentrazione? Ah, questo non lo so, non lo puoi chiedere a me perché non c'ero io. Non lo so come è successo. Non si sarebbe dovuta creare in teoria? Certo, ah. Certo. Siccome qui vicino alla scuola c'è il nido, che ha bambini, che ospita bambini italiani, stanno lavorando in maniera tale che se passano alla scuola dell'infanzia è lì che si ripristina l'equilibrio. Secondo lei eccessiva concentrazione di alunni stranieri in una classe provoca dei problemi? Senta, io stamattina sono andata a vedere per rendermi innanzitutto per augurare i bambini delle seconde, terze, quarte e quinte un buon anno scolastico. Devo dire che li ho trovati a lavorare divinamente. Tranquilli, sereni. Cioè non ci sono bambini che non parlano la lingua e che potrebbero ritardare l'apprendimento? No. Seguono bene i bambini, sono anche alfabetizzati. Se ci si confronta, i problemi non ci sono. Bisogna essere aperti. D'altra parte qui ci vivono accanto, ci vanno a fare la spesa. Insomma, la dirigente sdrammatizza e assicura che per il futuro le quote saranno rispettate, mentre le maestre, tutte donne, tutte meridionali, si armano di buona volontà. Sicuramente è difficile dal punto di vista logistico perché ci vorrebbe un corso di alfabetizzazione continuo, soprattutto per i cinesi. Ne erano messi due in classe ieri, non parlanti. Praticamente c'è tutto un lavoro che si fa a monte per questi ragazzi. Però alcuni sono molto disponibili, ecco per esempio dei miei due cinesi, uno è venuto 2 mesi fa, già parlucchia, c'è vocabolario eccetera, l'altra bambina sono 2 anni che sta in Italia, non spiccica una parola. Ma intanto la fuga spiace ai genitori immigrati che lanciano un appello agli italiani affinché tornino ad iscrivere i figli alla Pisacane. Alle 4:20, quando suona la campana, ci sono 5 continenti a via dell'Acqua Bollicante, volti, colori e accenti diversi si confondono sulla scalinata. Ma nello sguardo delle mamme, anche delle poche italiane rimaste, brilla lo stesso lampo di fiducia per questa scuola. Ormai siamo una cultura, come si dice? Quindi come fa a essere un problema? Molto contenta. Maestre ci sono bravissime. Per me bimbi italiani, bimbi stranieri, per me tutte uguali. Mi auguro che Carlo Pisacane diventi la scuola che era una volta, con tante sezioni e che si ripopoli di italiani. Che comincia in bianco. Pensa qui, quale pensa io? Che non sei carina. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci. E tutto per la puntata di oggi di Italia Incontro Luce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Vi ricordo che potete scriverci controluce@radio24.it, segnalateci le vostre storie, siamo anche su Facebook, Radio 24 Italia Incontro Luce. Buona giornata, a lunedì prossimo.